Il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. In collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige. A cura di Emanuele Cenghiaro. L'annata 2014 dell'olio d'oliva non è stata buona in Italia. L'anno scorso in effetti ci sono stati problemi sia climatici sia anche della cosiddetta della mosca, un parassita degli ulivi, che hanno decretato danni molto ingenti soprattutto nelle zone del centro Italia. Nel nostro Veneto la cosa non è andata così male. Chiediamo oggi a Paolo Barbiero del frantoio di Val Nogaredo sui Colli Euganei com'è un po' la situazione, come si è chiusa la campagna dell'anno scorso. Diciamo che la campagna dello scorso anno non è stata sicuramente delle migliori, però tutto sommato abbiamo avuto anche noi qui un grosso danno dovuto appunto a questo parassita, la mosca dell'olivo, che ha danneggiato tantissime olive, ma direi che alla fin fine insomma abbiamo avuto un terzo di produzione in meno rispetto alle annate precedenti, quindi tutto sommato ci siamo diciamo quasi salvati. Ciononostante le olive che sono state selezionate, perché le olive ovviamente che hanno una percentuale di superiore a 4-5% di attacco di mosca non le lavoriamo, quindi l'olio che abbiamo ottenuto è comunque un olio di buona qualità, direi sicuramente apprezzabile come quello degli scorsi anni, e quindi direi che tutto sommato siamo abbastanza soddisfatti insomma. Una curiosità, questa mosca di cui si sente parlare esattamente cosa fa? Come mai crea questi danni agli ulivi? Allora, la mosca quest'anno ha avuto un anno molto favorevole dovuto al fatto che c'è stato un inverno mite lo scorso anno, e la stagione estiva è stata molto umida e con temperature basse. La mosca ottiene il massimo diciamo della sua proliferazione con umidità elevate e temperature fra i 25 e i 30 gradi. Questo ha comportato una serie di generazioni di mosca, portando ovviamente a un numero che a una crescita esponenziale del numero di mosche. La mosca come si moltiplica? Viene deposto dalla femmina un uovo all'interno dell'oliva, che quest'anno è diventata come posso dire, è ingrossata molto velocemente, molto precocemente, quindi ha trovato anche il modo di deporre le uova su queste olive che sono mietate in maniera precoce, e chiaramente crea una serie di generazioni. La larva si nutre della polpa dell'olivo e quindi chiaramente abbiamo una larva, un vermetto che all'interno dell'oliva scava delle gallerie e manda ovviamente, come posso dire, fa marcire l'oliva di fatto sostanzialmente. Infatti le olive proprio attaccate alla mosca quest'anno addirittura sono seccate sugli alberi, si sono seccate sull'albero, e questo è un danno grave perché poi non si riesce, l'oliva cade, quella che non cade anche se è bacata non è lavorabile perché darebbe un olio pessimo, con un'alta acidità, con un alto numero di perossidi e comunque da un punto di vista organolettico non buono, quindi non consumabile evidentemente. Ecco, ovviamente ne hanno risentito i prezzi che sono in rialzo. Sì, i prezzi purtroppo in tutta Italia, perché il danno è stato generale in tutta Italia, poche zone si sono salvate, direi nessuna, diciamo qualcuna ha limitato i danni come da noi, ma non, nessuno si è salvato quest'anno in Italia. I prezzi nelle regioni più vocate, diciamo come la Toscana, come la Puglia o altre ancora, i prezzi sono più che raddoppiati. Noi abbiamo cercato di contenere il prezzo al massimo, però anche da noi evidentemente i prezzi sono leggermente saliti, perché mancando la materia prima, essendoci più richiesta che offerta, evidentemente i prezzi inevitabilmente sono aumentati. Parliamo un po' dell'olio dei Colli Euganei adesso. Qui forse non molti sanno che anche i Colli Euganei sono una piccola culla di olio di oliva, e non solo di recente, una recente scoperta, ma in realtà ha una tradizione più che centenaria. Però tanti conoscono l'olio, quando si parla di olio veneto pensano al Garda. Qui invece come mai si coltiva l'olio sui colli e che particolarità ha? Certo, infatti spesso e volentieri magari chi abita a Padova non sa che sui Colli Euganei si produce dell'olio e si produce dell'ottimo olio.

proteggerò da tutto, non temere mai. E amore mio, grande amore, che mi credi? Vinceremo contro tutti e resteremo in piedi. E resterò al tuo fianco fino a che vorrai. Ti difenderò da tutto, non temere mai. Ci saranno luci accese di speranze, e ti abbraccerò per darti forza sempre. Giuro sarò roccia contro il fuoco e il gelo. Veglio su di te, io sono il tuo guerriero. Siamo in linea con la trasmissione Il Quadrifoglio, stiamo parlando di olio di oliva, in particolar modo di olio di oliva di Colli Euganei, lo stiamo facendo con Paolo Barbiero, titolare del frantoio di Val Nogaredo, storico frantoio di Colli Euganei. Avevamo detto, stavamo accennando un po' le caratteristiche dell'olio, ecco, quali sono gli olivi, anche il nome delle varietà tipiche dei Colli Euganei? Allora, le varietà tipiche coltivate sui Colli Euganei, la pianta secolare che vediamo appunto qui sui colli è la pianta che viene chiamata rasara, è un pseudo frantoio, è simile al frantoio, però ha maggiore resistenza al freddo. Da noi ci sono climi in cui spesso e volentieri abbiamo le gelate invernali che possono danneggiare seriamente l'olivo, però rispetto al frantoio dà un olio più robusto in termini appunto di fruttato, di amaro, di piccante. Altre caratteristiche dell'olio, è appunto un olio equilibrato, adatto al consumo a crudo, sulla carne, sulle insalate, ha questo retrogusto tra l'altro di erba tagliata che mantiene appunto, come dicevo prima, nel tempo, e un po' ci ricorda quel profumo delle erbe cotte, quindi questa caratteristica, quell'amaro che è piacevole, che sentiamo sia sul profumo sia in bocca. Teniamo presente che il nostro olio, pur essendo poco conosciuto, forse addirittura è spesso più conosciuto all'estero che qui da noi siamo usciti anche qualche tempo fa sulla stampa in cui venivamo citati perché l'olio di Val Nogaredo conquistava Taiwan. In realtà non è che abbiamo conquistato proprio i mercati di Taiwan, i mercati internazionali, è che abbiamo un importatore che da diversi anni viene qui, acquista dell'olio e ha cominciato a diffonderlo, a promuoverlo a Taiwan, e sta facendo un ottimo lavoro. Abbiamo molta clientela tedesca, soprattutto del nord Europa, che apprezza molto i nostri oli appunto per queste caratteristiche che dicevo prima. Come quantità, più o meno, sia voi sia anche nei colli, il consorzio, che cosa, perché esiste anche un consorzio appunto di tutela dell'olio DOP dei Colli Euganei, quanto si riesce a produrre? Allora, sui Colli Euganei sono circa 400-500 ettari coltivati ad olivo, per un totale, stime di annate medie, non quest'anno magari, parliamo di 14-15 mila quintali di olive, che corrispondono a circa 2000 quintali d'olio. Noi abbiamo anche sui Colli Euganei la certificazione DOP, questo è una, diciamo, il riconoscimento dell'eccellenza dei Colli Euganei. I prodotti DOP sono delle eccellenze alimentari date da quel territorio. Da circa dal 2002, se non sbaglio, abbiamo avuto il riconoscimento della DOP. Io personalmente sono anche appunto il rappresentante dei Colli Euganei per il consorzio di tutela, nonché socio fondatore del consorzio di tutela, uno dei soci fondatori del consorzio di tutela. Abbiamo voluto questo perché appunto l'olio dei Colli Euganei è un olio molto interessante, e questo riconoscimento è il massimo che abbiamo potuto ottenere, appunto perché sono i prodotti più pregiati che si fresano di questo simbolino rosso, molto riconoscibile non solo sull'olio ma anche su tanti altri prodotti, formaggi eccetera eccetera. Ecco, dove si può acquistare l'olio, in particolar modo del vostro frantoio, appunto il frantoio di Val Nogaredo? Beh, nel nostro frantoio noi abbiamo il punto vendita e quindi di conseguenza si può acquistare qui direttamente, siamo aperti escluso lunedì, direi tutti i giorni, sabato e domenica mattina compresi. Poi noi distribuiamo a diverse gastronomie nel Padovano e anche a qualche piccolo supermercato, diciamo, quindi non direi neanche grande distribuzione, ma piccoli supermercati locali, diciamo, si può trovare il nostro olio. Grazie. Per chi volesse maggiori informazioni sul frantoio, ricordo che c'è anche un sito internet all'indirizzo www.frantoiovalnogaredo.com. Restiamo in tema di olio con la prima delle brevi notizie con cui andiamo a concludere questa trasmissione. Il commissario europeo all'agricoltura, Phil Hogan, rispondendo a un'interrogazione scritta del deputato italiano Nicola Caputo, che chiedeva quale iniziativa intendesse prendere l'Europa a tutela e sostegno del comparto dell'olio, in crisi sul mercato interno e internazionale, ha affermato che questo ricade sugli Stati membri, che possono decidere di sostenere o meno i propri produttori di olio di oliva sia tramite i programmi di sviluppo rurale con misure di gestione dei rischi, compresi i contratti di assicurazione o i fondi comuni di investimento, sia anche in base alle proprie risorse degli aiuti di Stato in conformità con le normative europee. Di fatto è un invito agli Stati membri, come l'Italia, a sostenere il comparto delle olive. Oggi alle ore 18 nella sede della biblioteca La Vigna, Centro di Cultura e Civiltà Contadina in Contraporta Santa Croce 3 a Vicenza, si tiene la conferenza Il grano, la nascita di una commodity e di un mercato globale tra 800 e 900. Relatore è il professor Carlo Fumian dell'Università di Padova. Chi vuole essere informato sulle interessanti iniziative di questo centro culturale dedicato appunto al mondo agricolo, iniziative che hanno cadenza quasi settimanale, ci si può iscrivere alla newsletter sul sito internet www.lavigna.it. Infine anticipiamo che il 27 febbraio si svolgerà un seminario di approfondimento nella sede di Veneto Agricoltura alla Corte Benedettina di Legnaro sul tema della diffusione delle specie esotiche invasive. È questa infatti attualmente una delle più grandi minacce alla biodiversità e ai servizi ecosistemici collegati, con ripercussioni anche sulla società e sull'economia. L'Unione Europea è impegnata a prendere tutte le opportune misure per garantire la conservazione degli habitat delle specie di flora e fauna selvatica. A tal proposito, l'anno scorso, nel 2014, è stato approvato un regolamento, il numero 1143, da parte del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive, entrato in vigore appunto il 1 gennaio di quest'anno 2015. Appuntamento quindi per chi è interessato il 27 febbraio alle ore 9 alla Corte Benedettina di Legnaro. Anche per questa settimana è tutto, vi diamo appuntamento alla prossima con il Quadrifoglio. Potete riascoltarci in podcast sul sito internet www.bluradioveneto.it. Avete ascoltato il Quadrifoglio, consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili, quattro elementi per la nostra vita, in collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige.